Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Grigliottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado. E rieccoci a Radio Contado e all'approfondimento della grigliottosa. Oggi volevamo parlare di intelligenza artificiale e lo facciamo con Federico, che è qui al telefono con noi, che fa parte insomma del gruppo Nina, né intelligente né artificiale. Ciao Federico, come stai? Ciao, buonasera a tutti, sto bene, grazie dell'invito. Grazie a te di essere, insomma, della disponibilità. Noi ti abbiamo già invitato in assemblea a Firenze, insomma, per parlare con la nostra comunità contadina, e visto abbiamo ritenuto molto interessante il tuo intervento, anche insomma chiaro, volevamo chiederti appunto di poterlo rifare, o comunque di dirci un pochino il tuo punto di vista sul mondo dell'intelligenza artificiale, su cos'è Nina, chi sei, cosa fai nella vita e che cosa ci consigli a noi che insomma non abbiamo ancora capito da che parte stiamo, ecco, per quanto riguarda la nuova tecnologia e la modernità. Allora, innanzitutto grazie, parto da me, mi chiamo Federico De Ambrosis e faccio il formatore nell'ambito della tecnologia da tanti anni. Ultimamente mi occupo di fare il formatore nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Io lavoro anche all'Università di Malta, dove ho un piccolo corso che si chiama proprio Introduction to Artificial Intelligence. Abbiamo creato uno spin-off che si chiama rivoluzioni.it, che utilizziamo proprio per fare formazione negli ambiti più disparati, da le agenzie di comunicazione, le aziende e quant'altro, ma principalmente l'ambito un po' più, diciamo, orgoglioso, di cui siamo orgogliosi, che abbiamo costruito, si chiama Nina, né intelligente né artificiale. Gli addetti ai lavori riconosceranno che è il titolo di un libro abbastanza famoso per chi si occupa di queste cose, che è proprio l'intelligenza artificiale, Atlas of AI, nella lingua originale, che è l'inglese, perché l'ha scritto Kate Crawford, che è una docente australiana che per prima si è occupata di fare una cosa che a noi è molto cara, che è politicizzare il dibattito intorno all'intelligenza artificiale. Cioè, la primissima cosa che noi abbiamo cercato di dire, cercato di far capire innanzitutto ai nostri compagni qui a Milano, è il fatto che l'intelligenza artificiale è una tecnologia e non è uno strumento. Questa distinzione è una distinzione abbastanza importante. Perché? Perché mentre gli strumenti sono neutri, le tecnologie non sono neutrali, non lo sono mai state. Le tecnologie dei tempi di Ned Ludd, che era probabilmente anche un ragazzo simpatico, sono sempre servite per aumentare la produttività e abbassare i salari. È evidente che la tecnologia sortisce degli effetti positivi, altrimenti non la utilizzeremmo, e quindi la nostra critica non è ovviamente in sé sullo strumento, ma sulle finalità. Per questo basta appoggiarsi ad esempio a John Maynard Keynes, che ci diceva che la settimana lavorativa sarebbero state estremamente corte, che avremmo prodotto molto di più di quello che ci immaginavamo, eppur producendo enormemente di più anche di quello che si immaginava Keynes, agganciare incrementi di produttività, incrementi di salari, di retribuzione o quant'altro non ha mai funzionato. E questo probabilmente ha anche a che fare col fatto che intelligenza artificiale e occupazione hanno delle correlazioni di breve periodo, ma la questione, cioè collegare le innovazioni tecnologiche a un aumento di redditi, non si è data. Noi come Nina ci occupiamo sostanzialmente di indagare innanzitutto l'impatto dell'intelligenza artificiale in vari aspetti, il mondo del lavoro, ma ci occupiamo anche di cercare di capirne meglio l'impronta ecologica, di valutarne tutte le svolte purtroppo militari e le applicazioni militari che stiamo vedendo. C'è un libro che si chiama Laboratorio Palestina, scritto anche qua da un australiano, si chiama Lowenstein, che racconta come l'intelligenza artificiale è servita nell'occupazione militare israeliana, nel genocidio nella striscia di Gaza, per cui insomma tutta una serie di applicazioni completamente distanti, diciamo, da quello che potremmo genericamente definire come bene comune. La riflessione da cui noi partiamo è che l'intelligenza artificiale non esiste separata dal mondo, dipende da un insieme molto ampio di strutture politiche e sociali, e infatti non esiste nessuna intelligenza artificiale senza le big tech. L'intelligenza artificiale non è una tecnica computazionale oggettiva, universale o neutrale. Serve moltissimo capitale per istruirla, serve moltissimo capitale per istruire l'intelligenza artificiale su larga scala, serve moltissimo capitale, risorse energetiche, risorse umane per ottimizzarle, quindi i sistemi di AI in definitiva finiscono per essere progettati per servire degli interessi dominanti. Questo è, diciamo, un po' il nostro punto di partenza. A livello politico, insomma, è come che, cioè, a usarle o a sostenerle è comunque fare il gioco dei potenti del capitalismo. Cioè, dov'è il confine? Cioè, come si fa, no? Perché siamo comunque tutti abbastanza ormai dipendenti da queste tecnologie. Ma allora, l'intelligenza artificiale, in particolare l'intelligenza artificiale generativa, è la tecnologia che sta dominando il mondo, e per vedere questa cosa è sufficiente guardare a Wall Street a quali sono le prime 6-7 aziende per capitalizzazione al mondo. E queste sono Nvidia, Amazon, Meta, Google, Microsoft ed Apple. Questa alla settima è Tesla, che è di fatto un'azienda di intelligenza artificiale, ma per argomenti un pochino complessi da introdurre in questa telefonata. Le sei aziende che ho citato che cosa hanno in comune? Hanno in comune il fatto di possedere un'enorme mole di dati. Amazon, che evidentemente è Amazon Web Service, il punto forte dell'azienda, non Amazon Distribuzione, e Nvidia posseggono i dati, perché di fatto possiedono le infrastrutture hardware dove questi dati transitano, server, chip, eccetera, eccetera. Google e Meta sono evidentemente i due software più utilizzati, e evidentemente Apple e Microsoft si contendono il mercato dei device. Queste sei aziende appunto hanno in comune il possedere un'enorme mole di dati, ed è sul possesso dei dati che vengono generate queste enormi ricchezze. Tanto che, non lo dico io, ma lo dice un docente che ci è stato vicino nella nostra nascita, che però è un luminare in questi temi, che è Nick Cowdery. Nick Cowdery è la persona che ha la cattedra di teoria dei media della London School of Economics di Londra, evidentemente, e lui ha coniato un termine che è data colonization. Questo termine data colonization ci serve a capire come le big tech hanno conquistato il mondo e come fanno a generare enormi profitti. Se voi andate su YouTube trovate i video di Nick Cowdery insieme al suo assistente che si chiama Ulysses Mejías, che presentano il loro libro che si chiama Data Grabbing, o comunque se cercate anche Data Colonization, Nick Cowdery, trovate loro che in alcune lezioni hanno fatto questo, in alcune presentazioni anche, hanno fatto questa metafora che è particolarmente funzionante e anche intelligente. Loro sostanzialmente dicono: l'era dei dati è di fatto un nuovo colonialismo, e le strategie che le big tech stanno applicando per conquistare il mondo sono esattamente le stesse strategie che la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda hanno attuato per conquistare quello che allora era il nuovo mondo. Questo mondo dei dati è un nuovo mondo, ma le strategie sono le stesse. E per spiegarvelo meglio, dice, esiste un gioco che si chiama proprio Colonization. Chi è un po' giocatore videogamer anni 90, primi 2000, vabbè, primi 2000, più anni 90, 2010 credo anche, lo dovrebbe ricordare. Sid Meier è stato uno dei più grossi, più importanti designer dei videogiochi al mondo, quello che ha fatto Civilization, Pirates, eccetera, eccetera. In questo gioco Colonization che cosa succede? Succede che noi siamo spagnoli, francesi, olandesi, inglesi, dobbiamo colonizzare il nuovo mondo. Cosa dicono Nick Cowdery e Ulysses Mejías? Dicono: le stesse strategie che noi dobbiamo utilizzare per vincere una partita al videogame Colonization sono le stesse strategie che le big tech hanno attuato per conquistare il mercato mondiale. E cioè ripetere costantemente quattro azioni. Queste quattro azioni loro lo chiamano 4X model, a loro gli funziona in inglese un pochino meglio che noi. Queste quattro azioni sono explore, expand, exploit and exterminate, cioè esplora, espandi, sfrutta e stermina. Chiaramente esplorare, una volta si trattava di esplorare nuove terre, qui si tratta di esplorare nuove fonti di dati. Io cito sempre una cosa, e qua la domanda che arriva sempre è: come fanno loro a accedere a nuove fonti di dati? Perché noi glielo permettiamo. Io in quasi tutte le presentazioni un po' entry level che faccio chiedo al pubblico se qualcuno ha mai letto i termini e condizioni di Chrome, e tendenzialmente nessuno, però li leggo io a quel punto, li leggo anche a voi che mi state ascoltando, così tutti sappiamo che quando installiamo Chrome sul nostro computer noi stiamo dando a Google una licenza che è, e qui apro le virgolette, perpetua, irrevocabile, mondiale, royalty free, non esclusiva, per riprodurre, modificare, tradurre, pubblicare, eseguire pubblicamente, visualizzare pubblicamente, distribuire qualsiasi contenuto che invii, pubblichi o visualizzi tramite Chrome. Per cui nel momento in cui io visualizzo una mia anagrafica di dati, ad esempio sanitari, con Chrome, quel dato è anche di Google. Fermami se sto andando troppo, se ci sono delle domande. No, vai, è chiarissimo, insomma. Ok, perfetto. Allora, questa è la loro maniera di espandersi, è la loro maniera di continuare a conquistare nuove sorgenti di dati, ed è un po' simile ai conquistadores che andavano a leggere i documenti fuori dai villaggi indigeni. Quindi noi un pochino dobbiamo capire che cosa abbiamo fatto tutti quanti quando abbiamo installato Chrome, cioè il risultato finito di quel processo è sotto i nostri occhi ed è il processo di addestramento della cosiddetta intelligenza artificiale generativa. Questa, se vogliamo, che cos'è? È una forma di esplorazione e di ricerca di contenuti che ha come campo di esplorazione l'intera cultura umana per addestrare i modelli, quelli che sono large language model, che sono le tecnologie, la tecnologia si chiama natural language processing, però diciamo le tecnologie che stanno sotto ai chatbot, quindi a ChatGPT, Gemini, ognuno usa il suo, per addestrare questi large language model è stato scaricato l'intero internet è stato poi processato in amplissima parte, Harvard e Stanford dicono al 91%, però tutta la produzione della cultura umana su internet è stata scaricata per addestrare questi modelli. L'intelligenza artificiale generativa deve essere addestrata con grandissime quantità di dati per simulare la scrittura, la musica o la produzione di immagini che fanno gli uomini. Quindi per essere efficace, l'intelligenza artificiale generativa deve esaminare moltissimi esempi di come gli esseri umani parlano, scrivono, compongono musica, immagini, e evidentemente non è in grado di generare qualcosa senza questi materiali di partenza. Che poi, se vogliamo fare un parallelismo, anche noi esseri umani impariamo prendendo in prestito un pochino gli uni dagli altri, quello che fondamentalmente pure noi chiamiamo cultura. Quindi qua dobbiamo tenere presente che l'intelligenza artificiale generativa è una macchina che viene progettata specificatamente per fare due cose: sostituire gli esseri umani nella creazione di cultura e nel processo evidentemente generare profitto per le società che riescono a governare questi processi. Società che possono governare questi processi che sono pochissime, 5-6 americane e 3 cinesi, perché? Perché evidentemente servono enormi capitali ed enormi risorse per innescare tutto questo. Il problema qual è? Il problema è che, ad esempio, quando noi utilizziamo un sistema, ad esempio, non so, MusicLM di Google, che è un sistema prompt to music, cioè un sistema in cui tu dai delle istruzioni per generare della musica, questo sistema è stato addestrato con circa $300,000 di musica creata dagli esseri umani. Evidentemente questi esseri umani non sono stati ricompensati nemmeno di un centesimo, non è stato pagato un diritto di licenza, è stato violato il diritto d'autore, eccetera, eccetera, e evidentemente usare l'intelligenza artificiale implica che abbiamo accettato di far sì che questi sistemi imparassero dalle nostre interazioni con noi. Quindi ogni volta che utilizziamo una forma di AI generativa, il sistema impara da noi e accettiamo di nuovo i termini e le condizioni di questa interazione, che sostanzialmente è estrattivismo o colonialismo, come lo vogliamo chiamare. Meccanica, macchina automatica, no? Veneta acerba di passione, rosso fiammante, ma senza età matura, marcia in postura, ma senza età matura, marcia in postura, delirio onnipotente, dominio che sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme, compatta, schiaccia. Sogno tecnologico, bolscevico, atea, mistica, meccanica, macchina automatica, no anima, macchina automatica, no anima. Ecco la terra in permanente rivoluzione, ridotta in belle sterile igienica, una unità di produzione, unità di produzione, tecnica d'acciaio, scienza armata, cemento, tavola rasa elettrificata, tavola rasa elettrificata, tavola rasa elettrificata, tavola rasa elettrificata, non è possibile, cioè non ci sono delle strategie per utilizzare questi strumenti senza entrare in questa logica estrattivista e colonialista, o delle tecnologie, degli strumenti che sono più compagni o... Allora, innanzitutto, quando parliamo di intelligenza artificiale dobbiamo anche essere chiari su una cosa: l'intelligenza artificiale generativa è soltanto un aspetto dell'intelligenza artificiale. Io insegno all'Università di Malta, ho un corso di 6 moduli e il 6° modulo è quello che vi stavo raccontando adesso, Natural Language Processing, LLM, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di altre cose che sono intelligenza artificiale e che non hanno bisogno, diciamo, di questa enorme mole di dati. L'intelligenza artificiale è la possibilità che le macchine eseguono dei compiti imitando, le capacità, le facoltà umane. Evidentemente le facoltà umane non sono soltanto produrre testi o produrre immagini, ma sono ad esempio anche prendere delle decisioni informate. E allora là dentro ci sono tutta una serie di altri mondi, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale, il machine learning, il deep learning, le reti neurali, eccetera, eccetera, che hanno molto più a che fare con aspetti di programmazione e rendere una macchina, mettere una macchina nelle condizioni di prendere appunto decisioni informate, che hanno meno a che fare con questi meccanismi estrattivi di, io ho citato soltanto l'esplorazione, però evidentemente poi nello schema di Cowell si va avanti, si racconta come per vincere la data colonization e conquistare il mondo bisogna anche espandersi, bisogna anche sfruttare e bisogna anche terminare le alternative. Non entriamo qua, sarebbe un po' lungo, però diciamo che il punto che noi cerchiamo di porre è, perché noi facciamo anche evidentemente, sia come Nina che come alcuni progetti collegati a Nina, facciamo anche sviluppo di software. Il punto che noi ci dobbiamo porre è, a noi che cosa serve questa tecnologia? A noi hanno chiesto più volte di sviluppare dei chatbot, però noi ad esempio sviluppare dei chatbot non la troviamo una cosa particolarmente utile. Recentemente c'è stata una polemica perché una ricercatrice, mi sembra olandese, ha sviluppato un chatbot che ha detto: questo chatbot è un chatbot transfemminista, è stato addestrato con i testi del pensiero del coloniale di colore, Bell Hooks, Other Lord, che tutto quello che viene in mente, e quindi vi risponde con quel background culturale lì. Il problema è che evidentemente quel sistema per girare gira su qualcosa di sanguinoso, perché senza delle cose che tecnicamente si chiamano API io non potrei accedere a, o se senza un addestramento base che io poi possa andare a raffinare, non potrei accedere a quel tipo di tecnologia. Quindi questa è un pochino la questione, secondo me. Ok. Ma nella chiacchierata, via, perché così passiamo anche delle robe anche molto concrete degli episodi, ci parlavi degli episodi dei lavoratori della Glovo. Sì. È interessante, no, per capire. Certo. Allora, intanto un altro esempio che ti posso fare su quello che citavo prima, velocissimo, è esiste un chatbot che si chiama sportellino.it. È stato addestrato con tutta la documentazione necessaria per aiutare i migranti, le persone senza permesso di soggiorno, a fare i documenti e a trovare cure mediche, eccetera, eccetera. Noi, dopo una discussione interna, abbiamo pensato di presentare quel progetto nel nostro festival che faremo a Milano e Roma 8, 9, 10 maggio. Abbiamo il problema della tecnologia sotto, abbiamo però anche la funzionalità di questa cosa che ti risolve di fatto il momento in cui noi riusciamo a diffonderlo, fa un servizio utile a delle persone che sostanzialmente hanno il massimo del bisogno di avere informazioni, interazioni, eccetera, eccetera. Quello di Glovo è un altro caso, nel senso che noi, alcuni di noi, lavorando anche come programmatori, sviluppatori, io in particolare mi occupo soprattutto di machine learning, per cui di insegnare alle macchine a fare delle cose, è capitato di creare dei progetti che poi siamo riusciti ad utilizzare, ad esempio, per fare l'assenza sindacale. Noi stiamo pensando di lanciare un sindacato universale digitale, questo perché secondo noi soprattutto dobbiamo diffondere la coscienza del fatto che qualunque azione mediata da una connessione internet è soggetta a estrazione di valore e a capitalizzazione di persone che saranno e sono, lo stiamo vedendo con la nuova amministrazione americana, sempre più il monumento alla merda, e dobbiamo renderci conto di questa cosa qua. Non pensiamo che la fuga sia completamente abbandonare i mezzi tecnologici, pensiamo che il campo della tecnologia sia ancora in parte contendibile. Ad esempio, con un progetto che si chiama Reversing Works, alcune persone che fanno parte anche di Nina sono riuscite a supportare lo sciopero dei rider di Glovo, sono riuscite a fare quello che tecnicamente si chiama reverse engineering, cioè a capire il pezzo, diciamo, non pubblico ma di monitoraggio dei lavoratori di Glovo, come funzionava. Là dentro è stato trovato un'istruzione, per semplificare le cose, che passava all'azienda la posizione dei lavoratori anche fuori dall'orario di lavoro. Quando questi hanno scioperato e erano stati in parte licenziati perché trovati con questo meccanismo di geolocalizzazione nel luogo dello sciopero, questa cosa è un comportamento antisindacale, e tramite il garante della privacy Glovo è stata condannata a 5 milioni di multa per trattamento improprio dei dati e condotta antisindacale. Questo è un esempio, così come ad esempio un'altra campagna che abbiamo lanciato, che è uscita anche un pochino su alcuni giornali, tramite un altro progetto che si chiama Tracking Exposed, che ci permette di fare il tracking, cioè monitorare le app che abbiamo installato sul telefono, che cosa hanno veramente dentro, perché ovviamente quando le installiamo tutti quanti accettiamo qualunque termine e condizione, esatto, senza leggerle. Ad esempio, là abbiamo scoperto che app di supporto psicologico come Serenis o Uno Bravo hanno contemporaneamente, poi tutte in realtà, io cito queste, ma mi sembra che 13 su 14 facessero la stessa cosa, avevano contemporaneamente i codici di firma di Meta Analytics, Google Analytics, quindi società che si occupano di certificazione, e contemporaneamente c'era una parte di hardware un pochino problematica a cui aveva accesso l'app, che era il microfono di registrazione. Quindi se 2 più 2 fa 4, quelli registrano le confessioni delle persone, i trattamenti psicologici delle persone, per poi venderli come dati. Sono tutte cose che evidentemente sono usi distorti della tecnologia, sono usi impropri della tecnologia, che ci servono a creare un pochino più di coscienza nell'uso degli strumenti. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. Bene, questa del sindacato, insomma, mi sembra una gran cosa, perché davvero ci si deve difendere a questo colonialismo tecnologico, insomma. Va bene, ci sono altre cose secondo te vuoi raccontarci e dirci? Sì, nel senso, cioè, il sindacato è chiaro che in questo momento è una cosa che noi facciamo, con l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione, perché voglio dire, per quanti siamo, una settantina di persone passate alle riunioni, una trentina di persone in riunione più o meno, non ti dico fissa, però per tanti è anche mezzo lavoro, ci sono progetti, ci sono cose, è evidente che nel momento in cui noi ci mettiamo a sfidare le big tech, ci mettiamo a sfidare i monopoli di Google e Amazon, sembrano veramente Davide contro Golia, però ci sono dei fattori che ci danno abbastanza fiducia. Il primo è che tutto sommato una coscienza rispetto a quanto questi strumenti siano in crisi di problematicità sta crescendo, anche perché Cory Doctorow dice c'è, cioè, quella che si chiama enshittification, sta tutto diventando una merda. I social stanno diventando una merda, Grok è già una merda, X è rispetto a quello che era Twitter è una merda, e per cui la propensione, la disponibilità delle persone a usare questi strumenti sta calando. E quindi, ad esempio, una campagna che lanceremo, noi stiamo lanciando alcune campagne che passeranno dentro il festival, che sono una mostra dell'incomputabile, cioè una chiamata alle arti per mostrare artisticamente tutto quello che una macchina non può calcolare, la tenerezza, la solidarietà, eccetera, eccetera. Non ha una coscienza. Campagna contro i software. Come? Una macchina non ha una coscienza o dei sentimenti. Oh, sì. Una macchina può surrogare dei sentimenti se glieli hanno istruiti, e li può mostrare sicuramente, però non può produrre nulla di nuovo. Una macchina può generare un film, ma non può generare, non può fare la nouvelle vague, perché evidentemente non può creare nulla che non è mai stato fatto da qualcun altro. Questa campagna dell'incomputabile noi ci teniamo molto, la faremo sia questa mostra, la faremo sia a Milano che a Roma, e ci serve a fare un po' una colla artistica. Faremo una campagna contro i software di human resources, per cui di selezione del personale automatici, perché è dimostrato che discriminano per genere e per razza. Però qui la campagna non ve ne posso parlare in questo momento, perché ha dei pezzettini di hacking un pochino estremo all'interno, e aspettiamo, diciamo, di definircela un pochino meglio. Lanceremo una campagna su quanti soldi ci devo a Facebook e quanti soldi ci deve Instagram per il tempo che ci passiamo sopra. Però stiamo pensando anche a un'alleanza con alcuni, chiamiamoli influenzatori compagni, piuttosto che giornalisti che si trovano un pochino sulle nostre posizioni, per iniziare ad attaccare, ad esempio, X, creare delle piattaforme di comunicazione alternativa che ci potrebbero portare un domani, in un lavoro molto complesso, a cercare di sottrarre sostanzialmente dati anche alle piattaforme social. Questo sarebbe un successo abbastanza grande, nel senso che tutti quanti sappiamo che Facebook è una merda, tutti quanti sappiamo che Instagram è una merda, però quando dentro i vari hacking team, piuttosto che hack meeting, piuttosto che reti tipo Reclaim the Tech, eccetera eccetera, costruiamo dei software alternativi, abbiamo capito perché la gente non ci va, abbiamo decostruito i processi psicologici per cui non si riescono veramente a alimentare queste cose, stiamo lavorando per fare in modo di arrivare alla condizione in cui ci sia una proposta sensata di migrazione fuori da questi mostri, ecco. Bene, ma possiamo rimanere magari che quando lancete queste campagne o a ridosso, insomma, magari di questo incontro che farete sia a Roma che a Milano, magari ci riaggiorniamo in una puntata, non un approfondimento di Radio Contado, così, insomma, lanciamo l'evento e ne riparliamo nello specifico. Volentieri, tra l'altro noi stiamo lavorando, stasera proprio c'è una riunione specifica sul festival a Milano, e stiamo lavorando a degli ospiti internazionali, essendo un festival tra Milano e Roma, essendo in mezzo, potrebbe essere pure che ci scappi che qualcuno riesce a fermarsi, a passare, a fare un giorno in più prima piuttosto che dopo, quello magari potrebbe essere interessante portare anche un pezzetto di questo festival su due città, un spin-off, qualcosa anche fuori, ecco. Assolutamente, assolutamente. Senti, siamo già, insomma, quasi una mezz'oretta di intervista. Se c'è qualche argomento che ritieni, insomma, caro, ci dedichiamo ancora 5 minuti e poi magari concludiamo con una bibliografia, con qualcosa dove possiamo trovare informazioni e farci un po' una cultura, stimolati da questa, insomma, puntata di approfondimento. Allora, guardo sulla... Allora, innanzitutto direi che noi abbiamo un sito che si chiama nina.watch, e su questo sito c'è una, ci sono tutte le iniziative che abbiamo fatto, ci sono quasi tutti gli audio, quasi un po' di trascrizioni dei vari cicli di incontri che abbiamo fatto in questi 3 anni, e soprattutto c'è una sezione di link che sostanzialmente sono le cose che ci siamo letti noi, ci siamo scambiati un po' noi in chat, divise per argomento, per cui importanza ecologica, tecnologie militari, futuro dell'AI, e là c'è una linkografia abbastanza abbondante, saranno 20-30 articoli per ciascuna delle 7-8-10 sezioni che ci siamo immaginati, di cose che ci siamo letti in questo, in questi 2-3 anni di lavoro. La bibliografia è una bibliografia un po' in evoluzione, nel senso che per almeno un anno, alcuni di noi lavorano anche dentro le case editrici e seguono le collane che principalmente pubblicano questi testi. Oggettivamente ci siamo un pochino detti che almeno nell'ultimo anno non è uscito tantissimo, e questo è un po' un problema, perché evidentemente questa tecnologia corre molto molto veloce, e sappiamo che mettere qualcosa su carta a gennaio del 2026 può essere molto vecchio a gennaio 2027. Ci sono sicuramente alcuni testi storici che inquadrano bene il problema. Uno l'ho già citato, è l'intelligenza artificiale di Kate Crawford, che inizia a avere 3-4 anni, però è il primo che inquadra il problema politicamente, pone la questione dell'intelligenza artificiale come questione politica dirimente. C'è un libretto simpatico del nostro amico Cory Doctorow, che è un giornalista attivista canadese, che si chiama Come distruggere il capitalismo e la sorveglianza, ed è carino perché non è che c'è il punto di domanda alla fine del libro, il libro è Come distruggere il capitalismo e la sorveglianza, e sicuramente tra i testi sacri, uno a cui noi facciamo sempre particolarmente riferimento è La società automatica di Bernard Stiegler. Poi evidentemente adesso ultimamente stanno uscendo un pochino di cose, un pochino nuove, un pochino più aggiornate, ci sono un po' di lavori di sociologi italiani anche interessanti. Noi abbiamo fatto anche dei cicli di presentazione di libri, per cui sulla sezione, sul sito trovate i libri che abbiamo presentato in questi anni, e questo mi viene in mente per ora, ecco. Bene, grazie mille. Allora, prima di lasciarci, un'ultimissima domanda. Un consiglio tecnologico che vuoi dare a noi comunità contadina, di come fare, cosa utilizzare, non lo so, un consiglio. Ma guarda, Bernard Stiegler diceva che la tecnologia domina il mondo, ma non c'è un pensiero di sinistra sulla tecnologia, in particolare su questa tecnologia che corre molto velocemente. E poi in un altro momento sempre Bernard Stiegler dice che bisogna trovare un farmaco, lui chiama proprio farmaco, un farmaco, qualcosa insomma che distingua la tecnologia buona da quella cattiva, perché è evidente che la tecnologia, se la utilizziamo, se si diffonde, è perché ci aiuta, ci fa risparmiare del tempo, ci facilita la vita, altrimenti non la utilizzeremmo. Quello che noi ci viene da dire è, noi quando sviluppiamo tecnologia ci chiediamo questa tecnologia che cosa ci serve, perché un chatbot a loro serve estrarre dati da noi, ma noi un chatbot non serve sostanzialmente, o serve in piccola parte. Specularmente quando usiamo la tecnologia credo che ci dovremmo chiedere se quello che noi abbiamo individuato come farmaco, l'abbiamo chiamato macchinismo sostitutivo, quella cosa è qualcosa per cui la macchina sta sostituendo una facoltà umana, un sapere umano, e per cui quella cosa poi resta demandata in una datificazione che estrae valore e mi sfrutta, oppure no? Questa questione del macchinismo sostitutivo noi l'abbiamo anche scritto in un documento abbastanza lungo insieme a un paio di intellettuali, tra cui uno è Giuseppe Genna, che è uno scrittore abbastanza noto, che sta seguendo uno dei nostri progetti, che è quello di fare una rivista. E il macchinismo sostitutivo per noi è il nemico che combattiamo. Noi sviluppiamo tecnologie, ma quello che ci diciamo è: noi siamo contro la macchina che sostituisce la facoltà umana, in qualunque ambito che sia decisionale, questo per un sacco di motivi, perché c'è il meccanismo della delega, c'è il meccanismo per cui Facebook ti cancella i post per, come dire, come era l'anno scorso, il referendum sul lavoro, dice ma è stato un errore l'algoritmo, per cui c'è tutto questo scarico di responsabilità. Se dobbiamo individuare in due parole il farmaco che ci distingue la tecnologia buona da quella cattiva è quando la macchina è sostitutiva, il macchinismo è sostitutivo. Noi continueremo a sviluppare tecnologia, continueremo a dire che il campo della tecnologia è contendibile e continueremo a lottare perché la gente utilizzi sempre meno software proprietario, software di big tech, e una volta che quelli hanno zero dati hanno anche zero potere e non possono più andare avanti a rendere il mondo una merda. Perfetto, allora con questa domanda insomma che mi sembra che possa fungere da guida nel nostro orizzonte, noi ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo Federico, davvero con l'impegno di risentirci, tu facci da promemoria quando avete queste iniziative e cose, magari a ridosso il venerdì insomma ci colleghiamo per sapere dove, come, quando e di che cosa parlerete e come sta andando. Grazie. Volentierissimo, grazie a voi. Buona serata. Buona serata.